Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 12. La scatola dei giochi del piccolo Gesù. L'indomani Mirko fu il primo a svegliarsi. Si sentiva da schifo dopo la notte passata a dormire sulla poltrona. Fuori dalla finestra la luce calda dell'alba illuminava un paesaggio per lui inusuale. Si alzò in piedi e andò al davanzale per respirare un po' d'aria fresca. Dopo un attimo si ritrasse di colpo afferrandosi alla tenda lì vicino. «Drago!» urlò alla stanza vuota. Un attimo di panico lo afferrò. Corse fuori dalla stanza chiamando l'amico. «Drago, dove cazzo sei finito?» Si precipitò verso la porta lì accanto e lo vide addormentato. «Socio, faresti meglio a svegliarti e a venire a vedere. I tuoi fedeli sono ansiosi di fare bella impressione.» Drago socchiuse un occhio. «Sì, cosa vuoi dire?» Si alzò di scatto e corse alla finestra. La piazza era piena di furgoni, limousine, pullman. Ovunque gente in piedi che formava capannelli attorno a ogni mezzo. Per un attimo Drago non capì. Poi si ricordò. «Oh, cazzo, sì, le TV, fantastico, socio! Abbiamo le maledette televisioni!» «Hai visto che roba? È appena l'alba e il gregge è già qui!» «Lasciamoli aspettare. Immagino che molti siano ancora in viaggio.» «Già, che ne dici di vedere come si mangia qui?» Uscirono dall'appartamento del pontefice, ormai loro dimora, trovandosi circondati da suore e prelati con abiti color cremisi inginocchiati davanti a loro. Procedettero maestosamente fra ali di tonache nere e scarlatte prostrate a terra. Ozelot ghignava verso di loro. «Su, cari, su, fateci vedere dov'è la cucina», disse facendo cenno con le mani di alzarsi. L'aria paradossale della situazione lo metteva di ottimo umore. Seduti a un tavolino così antico che avevano anche paura a toccarlo, divorarono la colazione che gli era stata servita con contorno di grandi sorrisi e genuflessioni. «Bene, dobbiamo iniziare a organizzare il nostro soggiorno qui. Mirko, dopo mangiato, tu ti occuperai di radunare tutti i televisivi. Quasi quasi ti cambio nome e ti chiamo Arcangelo Gabriele.» Mirko lo guardò con una smorfia. «Ok, capo, dove li porti i parassiti?» «Ho fatto alcune ricerche. Qui a due passi c'è l'auditorium, il posto dove gli armenti di solito si radunano. Ci sarà spazio a sufficienza e l'impianto di amplificazione è già pronto. Devi solo attaccare un paio di cavi di modo che potrò collegare il Devil quando farò il discorsetto.» «No problem, li farò marciare in fila indiana. Mi sento molto pifferaio magico.» Per un attimo ebbero di nuovo lo stesso pensiero. Sarebbe stato bello condividere quei momenti con i vecchi amici. «Va bene, dai, iniziamo a giocare.» Si alzò, già concentrato su quello che avrebbe detto di lì a poco. Mirko indossò fischiettando gli occhiali scuri e si avviò senza fretta in cerca dell'uscita. Ci sarebbe voluto del tempo per memorizzare la pianta della loro nuova casa. L'auditorium del Palazzo San Pio X in Via della Conciliazione era un delirio di folla. I più importanti magnati dell'impero dell'informazione erano arrivati con seguito di guardie del corpo e amministratori delegati, consigli di amministrazione, segretari e segretarie. Ozelot stava in piedi dietro il leggio, al centro del palco dell'auditorium. I 1700 posti a sedere erano tutti occupati. La distesa di uomini d'affari, vestiti da uomini d'affari, sembrava uscita da un quadro di Magritte. Stesse fogge, stessi colori. Che differenza con il suo vecchio pubblico di sballati. Eccoli burattinai. Quella gente considerava gli altri come merce da spremere. Erano quelli che giocavano per avidità con le persone, addomesticandole per il loro tornaconto tramite pubblicità subdole e dementi, programmi per cerebrolesi, volti finti per propinare parole finte. Li fissò negli occhi uno per uno fino a dove riusciva ad arrivare con lo sguardo, sentendosi montare dentro l'ira divina. Non aveva ancora acceso il Devil. Voleva capire fino a che punto l'effetto God avesse penetrato le loro coscienze. Nessuno si muoveva e nessuno parlava. Sembravano rapiti dalla sua figura. Volle fare una prova. «Inginocchiatevi!» ringhiò nel microfono. L'effetto fu immediato e grottesco. Le poltroncine ribaltabili non erano inginocchiatoi. Tra le centinaia di convenuti alcuni erano così bassi che genuflessi sparivano dietro gli schienali, altri così alti che non riuscivano a piegare le gambe in quello spazio angusto e se ne stavano innaturalmente storti, come schiacciati da un peso invisibile. Chi aveva sbattuto la testa oppure il naso contro la poltroncina di fronte si stava massaggiando in silenzio la parte dolorante. Ognuno però aveva obbedito senza esitare. L'unico rumore che si udiva era il ronzio dell'impianto di aria condizionata. Il meticoloso, benché soddisfatto della prova, decise di non correre rischi inutili. Tutto doveva procedere liscio e senza intoppi. Premette il pulsante del Devil, gli altoparlanti dell'auditorium ronzarono per un attimo e poi diffusero la voce dell'Onnipotente. «Bene, iniziamo a parlare della fogna che chiamate televisione. Voi miserabili la usate per distrarre, per spaventare, per controllare, per vendere e arricchirvi. No, cari suini, così non va. La vostra maledetta avidità qui, ora, è finita.» L'aria nella sala era pesante. Si sentì bloccare il respiro da una pietra posata all'altezza del diaframma. «Stai calmo, controllati.» Si portò una mano sul ventre, fece un respiro profondo e ricominciò in tono più condiscendente. «La succhia cervelli deve essere uno strumento al servizio dell'uomo, non dei maiali. Dovete distribuire conoscenza, dovete elevare e fare progredire chi vi guarda, non soffocarlo con il letame. Comincerete a insegnare come funziona questo mondo, o almeno le cose che capiamo. Sto parlando di scienza. Scienza, capite?» Il macigno che gli premeva sui polmoni non accennava ad andarsene. Aveva iniziato a sudare. Eppure l'aria condizionata funziona. Non sapevo di essere così incazzato. «Fisica, i principi della dinamica e della termodinamica, le forze, i costituenti della materia.» Scrutò qualche eventuale reazione. Nulla. «Chimica, matematica, geometria, fisica delle particelle, elettromagnetismo, biologia, genetica. Tutto quello che l'uomo ha scoperto dai tempi dei Greci fino ad oggi.» Richiamò con un cenno della mano l'amico rimasto dietro una delle porte laterali. Riviera si avvicinò e Drago continuò a parlare. «L'arcangelo...» Mirko gli diede una gomitata sullo stomaco che Ozelot incassò con uno sbuffo soffocato. «Lui sarà il vostro supervisore. Non uno spillo passerà dalle vostre emittenti se lui non lo autorizzerà. Iniziate a procurarvi degli scienziati, dei divulgatori, gente seria, non quei pupazzi che usate adesso per spacciare ignoranza e superstizione come se fossero scienza. Voglio universitari, ricercatori, giovani e vecchi, purché siano competenti.» Mirko coprì il microfono con la mano per non farsi sentire dal pubblico e bisbigliò. «Qualche bella figa?» «Purché sia competente», rispose Drago con una risata. «Bene, socio, hai qualche altro desiderio? Io più sto qui a guardare queste facce da cazzo, più mi vengono istinti omicidi. Ho bisogno di aria, fresca e pulita.» «Scusa, ma allora cosa farai la prossima domenica? Hai intenzione di far fuori qualche presidente?» «Qualche, io li brucerai tutti vivi.» Mirko lo guardò per un attimo, soppesando la possibilità che Drago scherzasse, ma non riuscì a togliersi il dubbio. «Qualche domanda?» chiese infine Drago alla platea. «No, naturalmente no.» «Fottetevi, bastardi. Vieni, socio. Per oggi basta con la scatola dei giochi del piccolo Gesù. Ho voglia di qualcosa di normale. Avrei voglia di una birretta al pub, anche se non avrà più il sapore di una volta.» Riviera lo osservò ancora, Per un attimo intravide tristezza dietro la collera, ma fu solo l'impressione di un secondo. «Tutto bene, socio? Che ne dici invece di farci un giretto in incognito? Magari con una buona bottiglia di rum?» «Come i vecchi tempi? Ok, ci sto. Dai, andiamo a vedere cosa combinano gli umani». Uscirono dall'auditorium e si diressero a piedi lungo via della Conciliazione. Roma era magnifica, ogni pietra trasudava storia e storie. Erano al centro di quel mondo che volevano cambiare, potevano quasi sentire sulla loro pelle il peso di quella responsabilità. Il Tevere spargeva nell'aria il suo odore ferroso di acqua dolce. Riviera e Ozelot camminavano come se quella fosse una normale passeggiata in un giorno di primavera. Le stranezze però sarebbero balzate agli occhi di uno spettatore attento. Non c'era traccia di polizia, non si riusciva a trovare una divisa neanche a cercarla. C'erano delle macchine della stradale e dei carabinieri ferme per strada, ma erano vuote. «Staranno prendendo martellate le pistole? Speriamo abbiano tolto i proiettili», sogghignò Mirko beffardo. «Diamo un'occhiata nella macchina», propose Drago. Aprirono le portiere ed entrarono. Riviera si mise alla guida. «Era una vita che volevo farlo. Starsky e Hutch sono tornati, tremate delinquenti!» E iniziò a fare il buffone imitando con la voce la sirena della polizia. «Resta da vedere chi sono i delinquenti», disse Drago, che con grande sollievo si era liberato il volto da sciarpa e occhiali. Iniziò ad armeggiare con la radio di servizio, mentre Riviera guidava seguendo il traffico che, devil o non devil, era rimasto caotico come sempre. Tutte le frequenze erano mute, scariche di rumore bianco e nulla più. Sotto la radio ricetrasmittente c'era anche una normale radio FM. Drago l'accese e subito udì la sua voce declamare: «Da oggi tutto è cambiato. Questo mondo così com'è non va. C'è bisogno di un passo avanti e visto che da soli proprio non ce la fate, faremo a modo mio. La prima cosa che cambieremo...» Osservò Mirko, inarcando perplesso un sopracciglio, e cambiò frequenza. Ora si udiva una canzone del gruppo. Il meticoloso riconobbe istantaneamente uno dei pezzi che avevano suonato al concerto del 1° maggio. «Cazzo, siamo più famosi dei Beatles», disse Riviera. «Se i Beatles avessero avuto il Devil, questo ora sarebbe un mondo felice, Mirko». «Oh, sì, me l'immagino. L'umanità sballata da mattina a sera. Un mondo colorato e psichedelico, altro che questo squallore. Ma noi non siamo da meno, e meno male che non siamo un gruppo death metal norvegese. Potremmo sempre diventarlo». Era la seconda volta che Riviera lo udiva parlare in quel tono, e la cosa gli metteva i brividi. Continuò a guidare mentre Ozelot cambiava ancora stazione radio. La voce belante del pontefice riempì l'abitacolo della macchina. «Cari fratelli, la rivelazione è scesa tra di noi. È arrivato il momento in cui ognuno di noi deve rispondere alla chiamata e adempiere al suo dovere. Eccoci insieme nel tempo della verità. Infine il gregge si è riunito al suo pastore. La vigna del Signore ha iniziato a dare i suoi frutti maturi». «Beh, sembra proprio che siano finiti i tempi dei DJ dementi che sparavano cazzate per dementi fra una pubblicità per dementi e l'altra», disse Drago spegnendo la radio. «Non credo che ne sentiremo la mancanza». Si guardarono intorno, non conoscevano abbastanza Roma per capire dove fossero arrivati, ma il posto gli piaceva, c'era un bel parco, decisero di lasciare la macchina e dare un'occhiata in giro a piedi. Con un sospiro di rassegnazione, Drago indossò la sua tenuta antiriconoscimento. C'erano anziani che portavano a passeggio il cane, mamme con bambini al seguito, badanti che spingevano carrozzelle. Era un ordinario pomeriggio romano baciato dal sole. All'improvviso udirono un tonfo sordo, seguito da un lamento. Veniva dagli alberi dietro la curva della stradina. Il suono si ripeté dopo pochi secondi e li incuriosì non poco. Percorsero i pochi metri della stradina girando la curva e videro alcuni ragazzi in fila indiana. Erano in piedi come se fossero stati alla cassa di un supermercato. Il primo della fila stava guardando un adolescente robusto che, dopo una breve rincorsa, andava a sbattere la testa contro un vecchio muro di cinta d'epoca romana. La pelle del cranio rasato era strappata in più punti. Rivoli di sangue gli scorrevano sul viso, dietro la nuca, fino a inzuppargli la canottiera. Il rumore proveniva dal cozzare delle ossa sui mattoni. Il lamento che lo seguiva sembrava non impedire al giovane di tornare sui suoi passi e prendere nuovamente la rincorsa per ricominciare da capo i suoi lanci. Mirko rimase turbato da quella vista, non riusciva a capire quello che vedeva. Lì per lì aveva pensato a una sfida tra i ragazzi di quella compagnia, forse una gara chi ce l'aveva più duro, il cranio. Ma ognuno di quelli che sembravano attendere il proprio turno non prestava la minima attenzione all'attività del picchiatore. «Ecco qua, come direbbe John Lennon, instant karma's gonna get you», disse Ocelot con un risolino soddisfatto, confondendo ancora di più le idee a Mirko. «Che cosa vuoi dire? Cosa c'entra Lennon adesso?» Drago non rispose subito. Guardò con soddisfazione il sangue che scendeva copioso. Aveva ormai disegnato un approssimativo cerchio rosso sul muro e lasciato una scia di goccioline rosse che risaltavano sul verde dell'erba. «Che gusto, che bello! Neanche io immaginavo che sarebbe stato così appagante!» Riviera continuava a guardare l'ariete umano senza ancora capire il motivo di tanto accanimento. «Senti, socio, non pensare male di me, ma io vorrei cambiare panorama.» Drago, pensieroso, mise un braccio attorno alla spalla dell'amico. «Hai ragione, vieni. Lasciamo queste inutili merde al loro destino. Vedrai che quando tutto sarà finito, nessuno ne sentirà la mancanza.» Mirko si guardava in giro mentre i tonfi sordi continuavano a risuonare fra gli alberi. Coppiette di innamorati sedevano sulle panchine godendosi gli ultimi raggi del sole della giornata e la reciproca compagnia. «Chissà le Anne», disse improvvisamente. «Già, chissà le Anne», replicò il meticoloso con aria triste. «Mi mancano», spiegò Mirko. «Anche a me mi mancano tutti i nostri vecchi matti. I matti più sani del mondo.» «Già. In confronto a quelli che erano all'auditorium stamattina, sono dei guru di saggezza, per non parlare di quelli che ci attendono domenica prossima.» La gente in strada sembrava la solita gente che si può incontrare passeggiando in una qualsiasi giornata di sole di qualsiasi città. «Ti sembrano felici?» domandò improvvisamente Ocelot. «Beh, mi sembrano tranquilli, normali, non sembrano lobotomizzati o ipnotizzati. Sì, direi che se la felicità non si riduce a ridere a crepapelle o a fare i salti di gioia, mi sembrano felici, tranquilli, realizzati. Guarda, le vedi le famiglie? Di solito i genitori che portano a spasso i figli hanno la faccia annoiata, persi, nei loro pensieri, problemi. Questi sembra che stiano a Disneyland, anche se sono in mezzo a questo traffico puzzolente.» «Cazzo, Drago, non ti facevo così sentimentale.» «Nessuno è perfetto. So di avere fatto cose che...» Guardò per terra come se cercasse di seppellire con lo sguardo i suoi ricordi. «Ma quel che faccio ora è per il bene.» Mirko fu tentato per un attimo di raccontargli di diossido e del dispositivo antidevil che gli aveva dato a sua insaputa. Ma dopo averci riflettuto un attimo decise di non rovinare quel raro momento di pace. Videro un paio di personaggi strani. Erano appoggiati alle loro Mercedes grigio chic da fighetti. Dai vestiti eleganti non sembravano tossici, anche se avevano delle siringhe in mano e se le stavano conficcando nelle gambe, come in un rito voodoo autoinflitto. A Riviera ricordarono i bersagli per il gioco delle freccette. Il più deciso dei due aveva almeno una ventina di siringhe infilate in ogni gamba ed era passato ora a conficcarsi gli aghi nel ventre. Le siringhe erano piene di una sostanza biancastra. Nessuno dei due aveva iniziato a spingere gli stantuffi. Sembrava che si stessero accontentando di piazzarle in un masochistico tiro al bersaglio. Mirko e Drago stettero in disparte a osservarli. «Capisci, socio? Fai a te stesso quello che fai agli altri.» Mirko all'improvviso associò quello che aveva detto Drago durante il sermone della rivelazione con quello che avevano visto e capì. «Figo! cazzo, semplice ed elegante, Drago, a volte mi sbalordisci, davvero, a volte mi lasci di merda. Intanto i due, con la massima calma, continuavano a tirare fuori dalle tasche bustine con polveri e pasticche variamente colorate. Le scioglievano scaldandole con l'accendino in alcuni piccoli contenitori e riempivano le siringhe con il liquido così ottenuto. Non appena la siringa era piena, andavano cercando un lembo libero di pelle per poi infilarla con delicatezza, in modo che restasse conficcata senza cadere. Erano molto coscienziosi nel loro lavoro, la fronte aggrottata in uno spasmo di concentrazione perfezionista. Erano entrambi arrivati fino al torace e già uno dei due aveva iniziato a conficcare i sottili aghi alla base del collo. Attorno a loro, come osceni petali di fiori sintetici, giacevano mucchietti di bustine di plastica trasparente. Il più smanioso dei due aveva accelerato il lavoro, guardandosi nello specchietto della Mercedes si perforava con delicatezza le guance come un fakiro. Riviera e Ozelot guardavano affascinati. Il gioco stava andando avanti da almeno mezz'ora, quando quello con gli occhiali si diresse verso gli alberi lì accanto. Scelse un fusto di dimensioni adeguate e stette immobile per un istante faccia a faccia con il tronco d'albero. Lentamente, per non fare cadere neanche una siringa, abbracciò il fusto facendo in modo che gli stantuffi delle siringhe premessero lentamente sulla corteccia. Fu molto abile nel sincronizzare i movimenti. Il liquido entrò in ogni arto nello stesso momento. Le vene del collo presero a gonfiarsi e a pulsare, mentre le unghie delle mani si conficcavano nella corteccia lasciando scorrere dai polpastrelli grosse gocce di sangue. Il corpo fu preso da violente convulsioni, ma lui non lasciava l'abbraccio con il fusto, che anzi sembrava farsi sempre più serrato. Le ginocchia furono le prime a cedere. Scivolò lentamente carponi con le mani ancora aggrappate e le unghie conficcate nel tronco della pianta. Sembrava un fremente innamorato inginocchiato che chiedeva la mano alla sua bella. I tremori del corpo cessarono senza preavviso, lasciandolo pietrificato in quell'abbraccio velenoso. Intanto anche l'altro individuo aveva completato la sua opera. Come un moderno San Sebastiano, se ne stava in piedi allargando le braccia in una benedizione tossica. Aveva lo sguardo rivolto verso il sole ormai basso sull'orizzonte. Stette immobile per alcuni minuti e, proprio mentre Mirko e Drago, stanchi di quello spettacolo, stavano per andarsene, senza preavviso si lasciò cadere a braccia aperte in avanti sul prato, come un albero abbattuto. La violenza dell'impatto con il suolo spinse in profondità gli aghi nelle carni e nelle ossa. Si udì il suono degli aghi spezzati. Assomigliava al suono dei popcorn che scoppiano nel forno a microonde. Il corpo prese a sobbalzare violentemente sull'erba in un amplesso con le zolle di terra e le colonie di formiche che, spaventate, presero a fuggire da quel inusuale cataclisma. Mirko era pallido e si sentiva lo stomaco contorcersi come un'anguilla in una pentola di acqua bollente. Corse dietro una siepe lì accanto e vomitò tutto quello che poteva, finché poteva. Drago lo aspettava, fissando pensieroso il quasi cadavere che giaceva sull'erba scosso dagli ultimi sussulti. Quando Riviera riemerse da dietro la siepe, gli fece cenno di seguirlo e si incamminò verso la strada. «Ascolta, socio, abbiamo visto l'atmosfera che c'è qui. Quello che non sappiamo, però, è cosa è successo fuori dai patri confini. Io vorrei dare un'occhiata in giro prima di domenica prossima. Devo capire come ha funzionato l'effetto God anche in paesi diversi dal nostro. Temo che la sfida sia globale. Se perdiamo di vista questa prospettiva, allora tutto potrebbe andare a puttane. Che ne dici? Ti va di venire?» «Beh, sì», rispose Mirko pulendosi con la manica un filo di bava. «Naturalmente mi va di venire, anzi, cambiare aria mi farà bene, sai, inizio ad avvertire una certa pressione. Meno male che sei solo tu il dio. Davvero, credo che io non resisterei al posto tuo. Spero di non avere incubi dopo quello che abbiamo visto oggi. Se li avrai, ti passeranno. O più probabilmente te ne verranno di nuovi e scacceranno quelli vecchi. Ma come faremo a...» Non importa, immagino che tu ci abbia già pensato. Esatto. Dai, cerchiamo un taxi. Fiumicino ci aspetta.